te le tue guance sul cuscino. Sti tempi qua di notte mi alzo in piedi e poi cammino. I'm a nightwalker, sono l'incubo peggiore. Guarda il male nei miei occhi prima di andare al creatore. State chiusi tutti in casa e fate il segno della croce. Salvarvi ripetete le preghiere a bassa voce. Creo svarioni nelle menti devolute dei più fragili. Ricordano gli istanti collegando nelle immagini. Pac, suona sta danza di morte fino alla fine. Con il sangue sulle porte per rubarvi le bambine. Sono stesse discipline, sempre incline a non tradire. Questa musica vi uccide prima che possa sentire. Queste mine sono vive, a me del resto non mi fotte. Girano su quarti spenti come passi nella notte. Sugli 80 bpm ho fotta fast che vi inghiotte. Fuori dalle tue rotte, vivo nella tua morte. I'm the Nightwalker, l'incubo peggiore in terra. Di notte sui fogli il tuo cuore poi si ferma. Come una presenza che oscura la percezione. Un grido nella tua testa riporta nell'illusione. I'm the Nightwalker, l'incubo peggiore in terra. Di notte sui quarti il tuo cuore poi si ferma. Il cuore palpitante scoppia sotto un cielo spento. I'm the Nightwalker, porto la morte sul cemento. Come la morte poi busso le porte forti. E sono un piano senza forte che poi morde le vostre facce sconvolte. Strisce a merda fra le tombe di colombe verso al cielo. Dio che muore si rinnega mentre tutto si fa nero. Sono passi silenziosi nelle teste creo psicosi. Non ho modi ma un odio per presentarvi una necrosi. Resto una bestia esorcizzata dalla terra di nessuno. Rinchiudo il mio suono scuro in ste barre senza futuro. E ti giuro oltre quel muro c'è un filo spinato su cui vi appendo come i quarti quando il pranzo è terminato. Splatter, presa diretta filmando bene gli istanti. Il tuo corpo putrefatto, love story da necromantics. Solo finzione, reazione, allucinazioni più buone. La mia fazione vi vuole appesi a quel cappio e qui piove. Sta pioggia verde che mi drena sotto pelle. Nightwalker, in questa notte senza stelle.